Sozzone, tu sei trasversale. Accogli tutti, non fai distinzioni. Uomo, per nulla banale, chiari sono le tue intenzioni. Col tuo panino tu mi stupisci, la mia malattia stanotte sopisci. Sozzone, che ti ergi fiero, da lontano m'appari e non mi par vero. Amico di nessuno e confidente, il tuo panino non sa di niente. Eroe mitico, dio pagano, della virtù mia tu ti fai guardiano. Non c'è nessuno a casa che m'aspetta, condisci pure, io non vado di fretta. Con le tue storielle, i tuoi assaggini, le salse, il zozzone, tu mi rovini. Mi devasti il fegato, ma non l'umore. Con quel panino unto e pieno del tuo sudore, di quelle mani che tutto hanno toccato, io dalla fortuna mi sento baciato. Eppure se misteriosa ne è la provenienza, del tuo cibo io ne faccio convenienza. Perché se dell'anima mia si è sentito lo strappo, stanotte, un zozzone, a qualcosa m'aggrappo.